270. Germano, ossia anatra selvatica primo. Quando comperate un germano, anas boscas, in mercato, apritegli il becco per osservare la lingua. Se la trovate molto risecchita, dite pure che l'animale è morto da lunga data e allora annusatelo per accettarvi che non puzzi. Alcuni suggeriscono di lavare questi uccelli con l'aceto prima di cuocerli, oppure di scottarli nell'acqua per toglier loro il selvatico. Ma siccome quel puzzo disgustoso, se troppo forte, risiede principalmente nella glandula urupigiale, io ritengo che basti il recider questa. Essa trovasi all'estremità del codrione, volgarmente chiamato stizza, e racchiude un umore giallastro e vischioso abbondante negli uccelli acquatici, col quale essi spalmansi le penne per renderle impermeabili. Vuotate il germano serbando il fegatino, il cuore e la cipolla, levategli la testa e la pelle del collo dopo averla aperta per estrarne le vertebre, ripiegatela sul petto dell'animale. A questi uccelli, quando si fanno in umido, si addice un contorno di cavolo nero o di lenticchie intere. In ogni modo si adoperi l'uno o l'altro, preparate un soffritto nella seguente maniera. Se il germano pesa circa 1 chilogrammo, tritate fine col coltello 30 grammi di prosciutto grasso e magro insieme con tutti gli odori, cioè sedano, prezzemolo, carota e 1/4 di una grossa cipolla. Mettete ogni cosa insieme con dell'olio in una cazzaruola e sopra il battuto adagiate il germano, condendolo con sale e pepe. Fatelo prendere colore da tutte le parti e poi aggiungete acqua per tirarlo a cottura. Cuocete nell'acqua il contorno di cavolo nero o di lenticchie e sia l'uno o l'altro rifatelo nel suddetto intinto. Assaggiatelo per aggiungervi, se occorre, un pezzetto di burro che lo renda più grato e saporito e unitelo al germano quando lo mandate in tavola. Il cavolo tagliatelo all'ingrosso e conditelo pure con sale e pepe.